Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. E non si vergognano, eh? Non si vergognano. Diga? Sì, dico. Dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari, va bene? Tutta sta roba. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei. Ma scusi, perché che ne ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose, quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, ah, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Senta, ne sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti li ho votati tutti. No, mi consento un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici. Qui era molto chiaro. Lo spartiacque era definito, ricordate Ferri d'Agosto, il film di Mirzì, si trovano nello stesso luogo di vacanza, una famiglia di coattoni e una famiglia di intellettuali radical chic. C'era uno spartiacque talmente preciso e indefinibile, il coattone spara e colpisce un ragazzo nero, figuriamoci perché, ma non perché lo voleva ammazzare così, perché aveva la pistola, si divertiva, gli altri inorridiscono di fronte a un gesto così estremo. Allora era facile, è stato fino a un certo punto facile definire chi votasse da una parte e chi votasse dall'altra. Poi mi sapete dire, alla fine dei giochi di questo referendum, su cui è stato detto di tutto e ancora sarà detto di tutto, voi avete capito chi ha votato no, chi ha votato sì? Insomma, lo sapete, perché mai come in questa occasione alle urne era definito e chiaro, tutti sapevamo, tutti i nostri amici, fidanzati, parenti, amanti, collaboratori familiari, interlocutori fuggiaschi e definibili, cosa avessero votato. Tutti lo dicevano, tutti lo scrivevano su Facebook, amici, amiche che avevano da giorni, da settimane, se non da mesi, aperto luoghi di incontro in cui ognuno si contrapponeva all'altro. Era ben chiaro, ognuno di noi fino a ieri mattina aveva una maglietta con scritto sì o scritto no. Molto difficile, molto raro, quelli che non lo dicevano, facendo i misteriosi, il voto è segreto. Lo dicevano tutti, contaminavano tutti, parlavano tutti con i parenti. Non ho mai visto portare tanti vecchi allo stato terminale ai seggi elettorali come ieri. Mi sono fermato un attimo, ho visto di tutto. Signori che poverine non si rendevano nemmeno conto cosa stesse accadendo, le trascinavano su per le scale. Vota, vota, vota. Quindi c'è stato un importante e sentito senso di partecipazione generale. Però adesso mi dovete dire esattamente, voglio una tipologia, voglio che me li descrivete dalla punta delle scarpe alla punta dei capelli. Chi secondo voi, secondo la vostra esperienza, ha votato sì e chi ha votato no? Perché io ancora non ho capito come è possibile definirli e classificarli. La trasversalità, la molteplicità è talmente articolata, è talmente variegata che io non saprei sinceramente dire: descrivimi chi ha votato sì, descrivimi chi ha votato no. Descrivere in realtà Silvio Orlando o rispetto a Sabrina Ferilli o la Morante rispetto a Gigi Alberti era facile, perché da una parte mettevi tutto quello che potevi dire di peggio, capito? Brutto, coatto, ricco, viziato, cattivo, razzista e via dicendo. D'altra parte tutto quello che puoi dire altrettanto di peggio: falso, ipocrita, radical chic, ideologico, insincero, via dicendo. Comunque li definivi. Uno era vestito con la camicia aperta, slacciata, col catenone d'oro e con la medaglia. L'altro aveva una camicia di lino etico e solidale, che ne so, adesso non mi ricordo bene, ciabatte infradito di cuoio naturale ecologico, non fatto con animali, ma è fatto, che ne so, con corteccia d'acero, che ha voluto cedere spontaneamente la sua corteccia senza che ci fosse una violenza verso il fratello acero. Quello che volete, erano definibili. Oggi viviamo nell'indefinibilità. Pierluigi, veloce secondo, Pierluigi. Buongiorno, io ho votato sì. No, non mi interessa, ha votato. Ha votato sì, si descriva. Com'è l'uomo del sì? Ma io ho votato sì per questioni... No, non me ne frega niente, nulla. Secondo me... Pierluigi, mi ascolti, non me ne frega niente perché ha votato sì. Si descriva, voglio capire oggi, voglio vedere le figure. Beh, io ho 70 anni. Sì, ecco. Come veste lei, come veste? Normalmente è normale per lei jeans. Beh, 70 anni jeans non è normale, è già un salto ardito. Un adulto adolescente, un 70enne con i jeans, che scarpe mette? Io scarpe normalissime. E come sono? Nere. Lei è un 70enne con i jeans e le scarpe nere. Già la vedo davanti. Giacche ne mette? Raramente, le mettevo quando lavoravo, adesso non più. E cosa mette sopra, a parte alta? Ah, metto maglioni, giubbotti. Giubbotti con o senza maniche? No, la con le maniche. No, importantissimo, grazie. Franco, velocemente, Franco, lei cosa ha votato? Sì, buongiorno, io sono stato presidente di seggio. Cosa ha votato lei? Ma io ho votato no. Come si veste? No. Come si veste? Si descriva. Ma io, guardi, io faccio parte di quella classe figli di ex famiglie borghesi degli anni 60 quindi... e 70 che ora sono internamente in crisi lavorativa dovuta a... Ho capito, come si veste? Come si vede addosso io a lei? Mi vesto casual, purtroppo devo fare una scelta di vita di un certo tipo. Quindi acquista le bancarelle? Acquista le bancarelle vuol dire? No, no, attualmente no. Che pantaloni indossa? Jeans, anche lei, vede, il sì e no sono accomunati dai jeans, vedete che difficile. Che scarpe mette? Metto di che colore sono? Scarponcini marroni. Cambia lo scarponcino, certo. Scarpa nera lucida, scarponcino marrone. Sopra cosa c'ha adesso? Scarponcino marrone opaco. Sopra? Sopra un giubbetto di quelli giovanili. Giovanile cosa significa? Per lei giovanile cosa significa? Quelli che portano i ragazzi di oggi di 30 anni. Ragazzi, perché non ci portano. Quei giovanili giubbotti di pelle nera? No, assolutamente. Di che colore? Sempre opaca, sempre marrone. Marrone, un giubbottino di daino marrone che per lui è il giubbottino da giovane. No, daino. No, di cosa? Di pelle? Di sintetico, un giubbottino sintetico marrone. Abbiamo già dato una tipologia del sì e del no, avete visto, già coincidono per i jeans e per la postura casual, vestono da giovani anche se hanno un'età abbastanza avanti nel tempo. Fermiamoci un istante, 800 24 00 24, daremo una traccia sociologica e antropologica di chi ha votato sì e di chi ha votato no. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Melog, cronache meridiane. L'Italia è repubblicana. Oddio, la mamma. Che cosa? La mamma si sente male. La mamma? Vieni. Il consiglio dei ministri. Andiamo, generale. Andiamo, Massimiliano. Andiamo. Non piangere, papà, non tutto è perduto. Vecchia eccellenza. Qualcuno che ride pure. Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re! Evviva! Canaglie. Vieni, caro, vieni. Non si presti a provocazione. Anche in questo caso era molto facile definire le parti. Alberto Sordi, nella vita difficile, referendum monarchia repubblica, 2 giugno del 46. A una tavolata di monarchici, lui e la moglie, coattissimi, popolari, sono gli unici a gioire per la vittoria della Repubblica. Gli altri naturalmente rischiano l'infarto, il lutto, la monarchia nera si trova improvvisamente segata fuori da un mondo di privilegi, di riferimenti. Gli unici a rimanere a tavola e mangiare sono Alberto Sordi e la moglie. Allora si capiva, oggi non si capisce. Ho lanciato questa sorta di tentativo di test antropologico-sociologico. Voglio capire chi ha votato sì e chi ha votato no. Ma non mi dite perché avete votato sì, tanto ormai il voto è fatto. Renzi da Mattarella, quindi chiunque ha ottenuto ciò che voleva. Chi ha votato no, chi ha votato sì subisce il volere, subisce. Tiene conto del valore della democrazia che vince chi ha una maggiore rappresentanza numerica. Detto questo, però voglio capire chi ha votato sì, chi ha votato no. Perché non mi è chiaro, non mi è definito, non voglio capirlo bene. Le due persone che hanno chiamato, due persone contrapposte nel voto, uno ha votato sì e uno ha votato no, però si sovrapponevano per molti tratti della personalità. Entrambi indossavano i jeans, entrambi erano attempati, ma attribuivano alla propria foggia di vestiario un tono giovanilista, vestiamo da giovani con i jeans. Entrambi comunque fanno una scelta economica, acquistano abiti che loro pensano essere di moda o essere comunque di uso comune del mondo giovanile, però li acquistano nelle bancarelle, grandi magazzini, quindi fanno delle scelte oculate. Vediamo se riuscite ad aiutarmi a definire bene le categorie di chi ha votato sì e di chi ha votato no, per riconoscerli, perché una volta era facile riconoscere uno di destra da uno di sinistra, uno ricco da uno povero, uno stolto da uno articolato, era facilissimo, bastava parlarci un attimo, vedere come era vestito, vedere come mangiava. Oggi non si capisce. Chi ha votato sì, chi ha votato no, è talmente trasversale, incrociato, il marasma delle tipologie umane che hanno votato sì e hanno votato no, che oggi vorremmo rifare chiarezza. testa, se possibile. Ho davanti a me un foglio bianco diviso a metà. Da una parte ho scritto sì, da una parte ho scritto no. Dalla parte sì ho scritto jeans, scarpe nere e giubbotto. Dall'altra parte ho scritto jeans, scarponcini e giubbotto. Ci sono degli elementi in coincidenza, degli elementi in lieve contrasto. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, io posso dire un mio test personale. Lei cosa ha votato? Cosa ha votato lei? Io ho votato no. Ha votato no? Mi sono ritrovato giusto una decina di giorni fa a una cena di classe con i miei ex compagni di scuola dopo praticamente 40 anni dalla fine della scuola. Interessante. E così ho fatto un test, che cosa votate, cosa non votate, eccetera, eccetera. È venuto fuori che su 10 due avrebbero votato sì e altri 8 no. E guarda caso, quelli che intendevano votare sì erano quelli economicamente meglio messi. Quindi lei dice i ricchi votano sì e i poveri votano no. Non è questione di ricchezza, non lo so. Ma Berlusconi comunque votava no, Berlusconi mica povero. Quelli che avevano qualcosa da perdere. Scusi, no, ma allora Berlusconi non è povero, Grillo non è povero e votavano no. Non vale. Vabbè, quelli non sono dei politici, hanno degli interessi diversi, personali. Vediamo su di lei, no? Vediamo su di lei. Nella gente comune, cioè, questo è il mio test personale, d'altronde basta verificare i risultati elettorali nelle varie sezioni. Va bene, questo è chiaro. Centro piuttosto che periferia. Sì, però Riccardo, questo lo lasci fare ai colleghi che stanno in questo momento facendo un lavoro molto serio. Il mio è un lavoro che è più sul faceto che sul serio. Si descriva, lei ha detto ha votato no. Allora, si descriva. Tipologia, lei cosa mangia normalmente? Che tipo di dieta segue? Dieta mediterranea, perfetto. Che tipo di attitudini ha nel suo tempo libero? Cosa fa quando non lavora? Cosa faccio? Non so, guardo la televisione, mi piace il calcio. Perfetto. Le abitudini di una persona comune. Perfetto. E che non può permettersi dei lussi eccessivi. Ecco, però vede che già la seconda persona che ha votato no, che parla di non potersi permettere. Il suo collega che l'ha preceduta compra i giubbottini alle bancarelle, ai grandi magazzini, perché dice non mi posso permettere quelli. Quindi c'è del vero in quello che dice lei. Un'ultima domanda azzardata. Mette la cravatta lei normalmente? No. Perfetto, mi ha dato degli elementi molto importanti. Dimitri, sì, buongiorno. Buongiorno. Lei per cos'è? Per il no? Per il no, esatto. Si descriva. 43 anni, commerciante, vesto casual, firmato. Firmato, quindi lei investe, pur votando no e pur appartenendo alla schiera di quelli che finora sembra che si forniscano solo alle bancarelle, lei invece veste firmato. Ma arriva agli outlet. Io le posso dire, sono un commerciante, gli ultimi 10 imprenditori che ho visto la settimana scorsa, grossi, molto facoltosi, tutti votavano no, hanno dichiarato. Quindi vedi, mi dà retta che è difficile però definirlo, non ci stiamo riuscendo. Molto difficile. Molto difficile. Andiamo avanti, vediamo se da altri elementi. Dunque lei porta sul piatto della nostra analisi 10 imprenditori, quindi figura lussuosamente vestiti, immagino. Non interessati all'abbigliamento, però molto facoltosi. Ah, quindi che mandano soldi all'estero, quindi fanno vedere che sono dei poveracci, questo vorrebbe... No, non hanno interesse, hanno interesse in arte, investono in arte, spendono in altre cose, non in abbigliamento. Non in arte, quindi non hanno la facciata di persona facoltosa, nemmeno l'orologio massiccio d'oro, no? No, al polso no, ma magari da collezione in casa sì. Ho capito. La pendola. Diciamo, che area sono? Area Brianzola, area... No, Veneta. Beh, sempre nord Italia. Allora, sani imprenditori del nord che non vogliono stentare il frutto della loro fatica e del loro lavoro, hanno le cassaforti pieni di opere d'arte, di oggetti preziosi, vanno in giro vestiti come poveracci, hanno votato no. Chiaro. Ma poveracci, normale, diciamo. Beh, oggi si veste normale, un po' poveraccio. Oggi... diciamo, ovunque vada vede persone vestite benissimo, mai viste persone vestite con tanta cura nell'abbigliamento, nell'abbinamento, nella scelta del marchio. Persona normale è uno ricchissimo che vuol far finta di essere povero, o è uno che è poverino, veramente nemmeno quei 10 euro per andarsi a comprare la maglietta finta firmata in una bancarella. 800240024, il discorso si fa interessante e intricato, il risultato sarà difficilissimo, ma noi ce la faremo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. ci posso pensare, chissà cosa ha votato quel signore di Conegliano Veneto che ha tentato con l'operazione ardita, con un siringone, quelli da silicone per sigillare che usano i carpentieri, l'ho applicato alle sue parti intime, dicendo, non avendo i soldi per comprarsi il Viagra, ha fatto un disastro, l'ha portato all'ospedale. Ecco, chissà cosa avrà votato lui. Comunque vi do qualche segnale dagli sms 800240024. Ho chiesto di descriversi ai nostri ascoltatori in base al voto che loro hanno dato a questo referendum. Cerchiamo, se possibile, di stabilire delle tipologie di chi ha votato sì, di chi ha votato no, ma è veramente difficile. Allora, voto no, giro seminudo tutto l'anno per mostrare i muscoli, solo abbigliamento ginnico, tatuaggio del Duce sul braccio, 59 anni, Lucio da Milazzo. Poi vediamo un po' qualcun altro, che stronzo sei, vabbè, ho capito. Forse non è questione di ricco oppure povero, dipende dal livello di istruzione. Le persone con taglio da ingegnere conosco votano sì, quelli con taglio umanistico votano no. Se guardiamo il foglio diviso in due, beh, questi sono importanti elementi. Vediamo un po'. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti, tanto complimenti. Cosa ha votato lei? Io ho votato sì. Qual è il suo film preferito? Il film di Rito, mi piacciono i film d'avventura, i film, i vecchi film di Joe Wayne. Joe Wayne, ecco, vediamo, Joe Wayne è, diciamo, è uno dei, delle figure mitiche di chi ha votato sì. Questo mi fa piacere. Ascolta musica lei? Sì, certo. Tipo di musica che ascolta? La moderna mi piace. Che cosa intende? Per moderna possiamo, che intende? Possiamo andare a comandare, per esempio. Andiamo a possiamo andare a comandare, che non è nemmeno questo il titolo. Comunque va bene, ho capito. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Ci ha provato, andiamo a comandare, ma ha votato sì, in realtà non va a comandare. No, ripeto, quello che la parola che definisce il mio voto è questo qua, l'immobilismo non mi piace, le sabbie mobili non mi piacciono. Infatti andiamo a comandare, c'è quel balletto che uno trema tutto così quando dice andiamo a comandare. Però cioè, dice anche che ha il cervello diviso a metà, che ha qualche problema. Sì, comunque a parte quello... Che gira con le ciabatte, infatti, con le infatti. Va, fa il selfie con i cani, ma va col trattore in tangenziale. Ma al di là di quello, credo che comunque Renzi... Diciamo lei è diviso fra John Wayne e Fabio Rovazzi. Questi sono, diciamo, c'è una curva fra queste due persone. E questi sono i miti generazionali che ha votato sì. È molto interessante. Ennio, Elenio. Sì, buongiorno. Quanti anni ha Elenio? 48. 48 anni. Vediamo un po' i suoi miti generazionali. Il suo film preferito? Blade Runner, no. Poi? E la musica preferita? Pink Floyd. Sì, diciamo, lei, diciamo, è abbastanza sugli anni 70 comunque, ecco, anche se ha 48 anni, come immaginate? La musica di Pink Floyd vale sempre il prezzo del biglietto, quindi... Quindi è un immaginario che va sugli anni 70, un po' cyberpunk, Blade Runner, lei ha votato no lei? Ho votato no, sì. Ha votato no. Vediamo un'apertura verso un mondo pieno di promesse, un mondo in cui non ci debbano essere dei muri, un mondo in cui natura e cultura si conciliano in una sorta di salvifico connubio con la tecnologia. E questo tutto bello, però collocato in un'epoca passata, non è collocato nella contemporaneità. Lei, diciamo, che è un nostalgico del futuro, però datato, e ha votato no, mi piace. Angelo. Sì, ciao, buongiorno. Dica, film preferito. Film preferito? I diari della motocicletta, il mitico Che Guevara. Ha votato no, quindi lei si... No, si... ho votato sì. Ha votato sì lei? Ah, questo è interessante. Ha lo stesso immaginario di Di Maio, ma ha votato sì. Ho votato sì, certo. Guardi, questo è interessante veramente. Non solo, vedi com'è trasversale. Ho cercato di convincere le persone che mi erano più vicino. In buona parte ci sono riuscito, ma sembra non sia bastato. Quindi... Il Che Guevara è nel suo, diciamo, nella sua il suo bagaglio culturale, nella mia conoscenza. Che Guevara, poi ieri c'era l'unità di Fidel Castro. E certo, Fidel Castro. E ha votato sì. A questo aspetta. E ho votato sì. Aspetta, scrivo Fidel, Che Guevara. Sì. Sì. Vede che però è un controsenso. Lei cosa mangia? Mangia bio? Assolutamente no. Cioè lei prenderebbe un bel maialino, gli infilerebbe un bel pallo nel sedere e lo metterebbe arrostire? Senta, mangio carne regolarmente. No, basta, vedi che siamo nella trasversalità più pura. Andiamo avanti un po'. Certo. Musica l'ha detta la preferenza. Musica non l'ho detta, io amo i cantautori italiani in prevalenza. Guccini. Certo. Guccini, Pierangelo Bertoli. Lei, diciamo, è uno che si potrebbe dire con una lettura vetero di sinistra. Diciamo così. Di sinistra nostalgico e ha votato sì. Se esiste ancora una destra e una sinistra. No, stiamo capendo in questo momento. L'Europa vira a destra e questo è evidente. Però per lei da antico compagno e quindi abituato alle letture politiche, apprezza il mio sforzo. Io sto cercando di definire delle tipologie. Sì, sì, ho capito, certo. Lei avrebbe girato con un eschimo come Giacuzzini Verde, siede con le Clark, col manifesto infilato in tasca, lotta continua, sarebbe visto i capelli un po' lunghi, un sacco di figa vicino. Sì, lotta continua no, diciamo che sarei un tantino più moderato. Beh, certo che in questo paese, dove c'è di solito tanti partiti che si mettono d'accordo alle spalle degli elettori, dopo aver votato, io voto un partito, poi mi ritrovo che quel partito lì ha fatto... Ma lei come se lo spiega, scusi, lei vecchio compagno, come si spiega che ieri a Roma si è mossa una folla col pugno chiuso, cantando Bella Ciao, tutti andavano con i furconi all'assalto del balcone di Renzi, poi lui si è rimesso prima, quindi hanno evitato questa sorta di presa alla Bastiglia, ma quelli erano suoi compagni o erano un'altra cosa? Ma, probabilmente sono persone che con, come dire... Compagni che sbagliano? No, che sbagliano. Probabilmente non hanno capito il messaggio di Renzi. Ah beh, ho capito. Bene, questo, adesso non voglio entrare in valutazioni politiche. Certo. La ringrazio anche di avermi aiutato, è stato fondamentale. Io allora aggiungo nel fronte del sì Fidel, Che Guevara, miti legati a Guccini, che non avrei mai detto Guccini, però stanno insieme a John Wayne e a Fabio Rovazzi dalla stessa parte, questo si rende conto. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Salve. Giuseppe, che ha votato lei? Dunque, io ho votato no. Sì. Ma le motivazioni sono... No, non ce ne non ci interessano. Lei porta... Io sono un pensionato. Allora, senta, lei porta pantofole quando sta in casa? Sì, quando sto in casa sì. Porto pantofole. Che ma tipo? Per non sporcare il parquet. Giustamente, ma che tipo di pantofola? Pantofole che costano 2-3 euro. Sono quelle pantofole fatte apposito per la massaia, insomma. Cioè, quelle, diciamo, sono in tessuto? Bravo. Di che colore? No, è importante anche il colore. Ma sono varie, sono bicolori, alcune tinte unite, altre fantasia. Anche scozzesi? Se costano poco, ne compro 5-6 alla volta al paio. Ma perché? Si consumano molto facilmente? Eh sì, strisciando sul parquet sì. Ah, quindi lei fa attività fisica pattinando sul parquet di casa? Bravo, in particolar modo alla mattina. Però risparmia la palestra così? No, io per attività d'inverno pratico lo sci abitando... E si allena sul parquet l'estate con le pattine? No, d'estate oltre al parquet c'è il tennis. Ah, lei a giocare a tennis è una cosa molto... Lei quanti anni ha, scusi? Io ne ho 72, sono un ex dirigente della grande distribuzione. Lei ha votato no però lei? Certamente, ho votato no e per questo però ci tenevo a dire che la supponenza e l'arroganza di alcuni nostri... Sì, vabbè, questo è... Che ci frega perché ha votato? Io voglio capire come ha fatto lei. Ha votato no, ma principalmente per queste motivazioni. Mi dica il suo passatempo più indicibile, che non vorrebbe dire a nessuno. Ma è quello ancora tendo di fare sesso, ma molte volte non ci riesco. Allora, diciamo, un desiderio inespresso di sessualità. Non ci riesce per motivi fisici o per motivi perché non trova la materia prima? No, per motivo, molte volte che non si trova la materia prima la nostra. Quindi posso dire, vota no chi non scopa, scusi il termine. No, è troppo esagerato. Diciamo, vota no chi non scopa spesso. Allora, vota no chi non scopa spesso. Scusi la crudezza, ma serve anche questo dato. No. Quello che ci vuole. Patrizia. Salve, ciao. Allora, dimmi. Lei cosa ha votato? No, tanto per cambiare. È d'accordo con l'ultima lettura del nostro sondaggio? Dunque, allora, ho avuto un momento di pausa, non ho le... Il signore ha detto che secondo la sua esperienza personale, ma ognuno porta il suo... Sì? Vota no chi non ha una frequente attività sessuale. No, quello non c'entra niente. No. Direi che magari chi è più o meno arrabbiato può votare no. E chi è arrabbiato non si congiunge? Non lo so, questo dipende, tante volte. Come dico a Napoli, o pesce non vuole pensieri, questa è la fa. Non è questo il punto, non è questo. A Napoli infatti il 70% ha votato no, quindi o pesce non vuole pensieri. Può darsi. Allora, com'è vestita lei? Allora, come sono vestita? Jeans, immancabili. Aspetti, jeans sia la parte sì sia la parte del no. Comunque va bene, sì. Appunto. E poi scarpe, diciamo, buone, ma comprate con quando ci sono i super extra mega sconti. Vabbè, quello fa bene, è intelligente. Ok. E allora, che tipo di scarpe mette con i jeans? Però questo è importante. Scarponcini, niente di che. I cosiddetti, scusi il termine, ma i cosiddetti acciaccaminchia, cioè quelli che proprio non, allontanano il desiderio. Sì. Cioè, scusa, vuoi sapere, dimmi. Poi, il suo film preferito? Il mio film è Hunger Game. Quale della serie? L'ultimo? E tutti. Praticamente tutti. Quindi gli piace, allora, lei vota no, al no piace vedere i giovani che si massacrano. No, non è questione, questo è anche tutto questo. Il contrario, giovani che si ribellano, è diversa la questione. Però tutto inizia ad essere un grande gioco in cui i giovani si ammazzano tra di loro, poi si ribellano. No, è la società degli adulti. La lettura è diversa, perché quella lì è una storia dove sono costretti a comportarsi in una determinata maniera per la sopravvivenza. È ammazzarsi. Però poi si ribellano perché prendono coscienza. Una società degli adulti conservatrice che i giovani fa passare attraverso questa prova terrificante per selezionare i più cattivi, i più assassini. Ma in pratica diciamo che siamo diventati tutti adolescenti da questo punto di vista, qui ci manovrano alla grande, quindi questa... Lei si sente quindi l'eroina, quella con l'arco e le frecce? Sì, esatto. Brava, allora, sogna l'arco e le frecce, però mette il jeans con lo scarponcino, ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Un ascoltatore ci tiene a ribilanciare la parte più cruda del nostro sondaggio e ci scrive via SMS: non scopo mai, ma ho votato sì. 48 anni, artigiano, auto preferita, Tesla, film Scemo più scemo con Jerry Calà, gli piace. La musica rock. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa ha votato? Pronto? Cosa ha votato, Riccardo? Ho votato no. Cosa fa nella vita? Sono un insegnante. Che disciplina insegna? Matematica e scienze. Che tipo di giacca mette quando va a fare lezione? Quando fa, non metto giacca. Gli insegnanti moderni che non mettono la giacca. Sessantenne, ma mi considero tale. Giovanile. Tipo di pantalone usa? Pantalone jeans, quando non c'è freddo, e pantalone un pochino più pesante, visto il freddo alle gambe, quando viene l'inverno. Quindi lei comincia a mettere il pantaloncino di lana d'inverno? No, per niente, no, un pantalone leggermente più pesante. Cotone pesante. Diciamo di sì. Prelavato oppure lo compra nuovo che non si deve stingere? Ma anche prelavato va benissimo, basta che sia, però amo diciamo i capi, insomma, abbastanza carini, insomma, sono abbastanza narciso, ecco. Mette pantaloni, cioè, di media quanto spende un pantalone? Più o meno di 150 euro? Meno di 150, però li vado a prendere all'outlet e quindi sono di marca. Sono pantaloni da 200 euro, quindi va bene. Diciamo quelle le piace. Che scarpe indossa? Come? Che scarpe indossa? Beh, diciamo dalle scarpe tipo Bickenberger, Hogan, adesso per esempio ho dei polacchini. Dei polacchini, i polacchini sarebbero le Clark, più o meno. Sì. Però non è il mio tipo di scarpa preferito, scarpa bassa la preferisco. Le faccio una domanda fondamentale, smartphone Android o Apple? Android, ecco. No, il no c'ha una sua scelta molto particolare, un po' meno legata al brand fighetto, il jeans rimane sempre. Il film preferito? Il film preferito, ne ho due, praticamente sono L'attimo fuggente di Robbie Williams, sì, e Momenti di gloria. Beh, L'attimo fuggente, tutti gli insegnanti amano L'attimo fuggente, chiaro. D'altronde, ragazzi, è il film che maggiormente dà dignità all'insegnante. Lei sale mai sulla cattedra in piedi, no? Ci fa salire i suoi. Sono salito sulla cattedra un paio di tutti volte, l'hanno però fatto, ho detto ai ragazzi di non dirlo alla preside. Sì, però guardi, è diciamo il lato dell'umarellaggine docente, è come dire, non lo so, è come se io facessi che ne so, qualche personaggio del cinema che parla alla radio, il protagonista di Talk Radio, cose del genere. Cioè è un simbolo ormai talmente deteriorato dall'abuso che ne è stato fatto che sorpasserei. Comunque va bene, lei ha votato no, ha spiegato perfettamente quello che è la sua Weltanschauung, quindi è molto chiaro e coincidente con altri modelli, ma è netto contrasto in realtà con l'idea che ci possa essere un modello. Leandro, buongiorno. Lei è un ragazzo? Sì, 25 anni. Oh, finalmente abbassiamo il campione. Cosa ha votato? Allora, io ho votato no. Ecco, lei descriva il suo abbigliamento, vediamo se coincide con il campione attempato che ci ha preceduto. Allora, il mio abbigliamento è casual, all'occasione elegante. Ma casual vuol dire tutto e niente. Che ok, tipo? Casual vuol dire che mi posso mettere il maglioncino con la t-shirt, può essere che mi metta una camicia. Maglioncino in lana o in cotone? In lana o in cotone? In girocollo o a V? Girocollo. Con la maglietta sotto? Sì, dipende, con la maglietta intima. Ma aggiunge una catenina, maglietta intima? No, scusa, mette la maglietta della salute a 25 anni. Ma dipende, no, no, no, lo dica, mica è un peccato. No, al posto della maglietta intima. No, lei ha detto maglietta intima, la maglietta intima è la maglietta della salute, non è una t-shirt. Sì, al posto della, intendevo maglietta intima per andare sotto al maglioncino, semplicemente per... Ma, comunque non allora, quando lei va a acquistare quella che lei chiama maglietta intima, dice voglio una maglietta da sotto o prende, va in un negozio di jeans e compra una t-shirt? Guarda, no, dica la sì, è importantissimo, è il dato che potrebbe fare oscillare tutto il risultato finale. Maglietta intima si compra insieme ai pigiami, si comprano pigiami e mutande, tanto per capire. Nel negozio di pigiami e mutande compra la maglietta intima, nel negozio di abbigliamento compra la maglietta. In quale negozio va? No, senza vergogna. Assolutamente. No, abbia il coraggio delle sue azioni, veramente. Assolutamente, se no non avrei telefonato. Lo dica. La t-shirt normalissima con cui si può stare anche senza il maglioncino. Una t-shirt normalissima. Mi metto quella. E perché la chiama intima? Intima le mamme. Hai messo la maglietta intima? La maglia intima perché io la utilizzo come maglia intima. Poi se non è la maglia intima per andare in... La destinazione d'uso è stata cambiata. Una maglietta da sopra lei mette come... Chiedo scusa per... No, scusa. Ma guardi, lei non deve vergognare. Nel caso lei mettesse le magliette, quelle si comprano abbinate con le mutande, che si chiamano magliette, non se ne deve vergognare. No, assolutamente. Ma l'inverno magari ne mette una un po' di lana un po' più pesante. Che è la maglietta intima, non esiste la t-shirt di lana. Domanda trappola. Sull'abbigliamento diciamo che ma può indagare... Guardi, no, lei deve confessare. Deve essere, è importantissimo. Lei è il primo che chiama di 25 anni. La sua maglietta, lei mette la maglietta della salute. Lo dica. Coraggio, sentirà meglio dopo. Ma guardi, non mi sembra un problema psicologico che ho. No, ma è importante. Capita. Guardi, mi manca solo questo... Allora, guardi, in questo momento io sono con il maglioncino. Posso dire la marca o dove lo compro? Ma no, vabbè, è indifferente la marca. Posso? Il tipico maglioncino della Domios comprato a Decathlon, quelli molto sportivi. Sì, sì, vabbè, ho capito. Da Decathlon, sì. Ieri sera avevo un maglioncino di lana, comprato sempre nei centri commerciali, sì. Roba del genere. Sì, ma quando è molto freddo? Quando è molto freddo? Lei nel suo cassetto, dove ha tutte le camicie, le magliette carine. C'ha un settore di quelle magliettine che non sono proprio bianche, sono bianche un po' pesanti. No, innanzitutto se la metto nera, non la metto bianca. Vabbè, quelle in coordinato con le mutande nere, che sono da notte. Sì, anche oh, lo dica, nere. Metto la maglietta da notte. Non sempre, ma dipende. Ma non sempre, ce l'ha. Se trovo la maglietta... Io non ce l'ho più nel mio cassetto da quando avevo 10 anni, perché mia madre me lo imponeva. Quando ho cominciato ad essere un po' autonomo non l'ho più messa. La maglietta della salute è una maglietta che si mette per sentire caldo, non è una maglietta fighetta che uno mette sotto. No, allora, vivo in un paese che quando ha umidità, molta umidità, allora qua molto spesso... ci sono quelle magliette in microfibre che si mettono sotto la cosa da sci, che sono molto carine, però è microfibra, non è maglietta della salute. Guardi, io non so. Vabbè, dicono tutti che sto esagerando. Per me era un dato fondamentale. Allora, vabbè, abbiamo capito. Grazie del contributo, Leandro. Michele, buongiorno. Buongiorno. Michele, ha votato sì? Sì, ho votato sì. E mette la cravatta? Sì. Questo è un dato importante. È il primo che ammette di mettere la cravatta. La tiene sempre. Quando torna a casa, se la slaccia, se la toglie? Voglio mi metto il pigiama. Ah, ecco, perfetto. Dunque, allora vedi, abbiamo due antitesi. Abbiamo un no che mette la maglietta alla salute nonostante lo neghi, e abbiamo un sì che la sera si toglie la cravatta e si mette il pigiama come se fosse una tutina da casa. È importante, ma non abbiamo concluso nulla. No e sì, in realtà si è sparpagliato in maniera trasversale in tutti gli italiani che ancora si chiedono perché hanno votato, cosa hanno votato, perché hanno votato. A domani.